La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. L'articolo 108 garantisce in maniera ulteriore l'indipendenza della magistratura e stabilisce infatti che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. Quindi significa che l'organizzazione della giustizia deve essere stabilita dalla legge in maniera che sia oggettiva e imparziale. Oggi com'è la ripartizione delle giurisdizioni? Oggi abbiamo noi una giurisdizione ordinaria generale che ha funzioni civili e penali. Le funzioni civili sono quelle che riguardano i rapporti fra cittadini e quindi tutte le cause di risarcimento, di condominio, familiari. I rapporti penali invece sono quelli che riguardano la potestà punitiva dello Stato, lo Stato che persegue i reati e li persegue mediante la magistratura. A livello di organizzazione giudiziaria, il giudice di primo grado può essere, a seconda delle materie e del valore delle cause, o il giudice di pace per le cause più semplici o il tribunale. A quel punto poi è prevista una garanzia di un secondo grado di giustizia, che è l'appello, in genere previsto da una corte d'appello, civile o penale. E poi le sentenze di secondo grado possono essere impugnate in Cassazione. La Corte di Cassazione è l'organo supremo di nomofilachia. Questa parolaccia, no? Questa parola molto giuridica, molto burocratese, ci fa capire la funzione della Corte di Cassazione. Nomofilachia, principio di affinità, di interpretazione conforme del diritto, cioè tutto il diritto deve essere interpretato in maniera omogenea ed ecco quindi che c'è un giudice di legittimità, la Corte di Cassazione, che verifica soltanto che nei giudizi di primo e di secondo grado sia stato applicato correttamente il diritto e cerca di applicare in maniera oggettiva l'interpretazione affinché valga per tutti. Questa è la struttura giudiziaria prevista per legge e quindi garantita in maniera imparziale.